vita. Ti prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando il bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di lata e una scia, e poi quando imbalzò su di noi, io ti amo. Quasi a proteggere con dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio bianco, tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole c'ero, io ti amo. I know.